sei, lo vedi, lo vedi solo tu. Se lo senti, lo senti solo tu. È il fatto che non lo veda e senta anch'io non significa che non esiste. Solo mi riesce difficile pensare essere io il demone che dici, è che tu sia Dio, ma se fosse così non avremmo più spazio per trattare. È la tua faccia che cambia di colore, l'inequivocabile segnale di uno stato di malessere interiore, della crisi che sta per arrivare. E a questo punto non servono parole, e d'altra parte non ci sono alternative, perché nulla adesso è più reale tranne la finestra aperta sul cortile. E allora è come nelle storie a lieto fine che ci vengono incontro gli angeli con in mano la serenità, nei tuoi occhi la serenità.